Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me, Giovanni 15 e 18. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia, 1 Giovanni 3 e 13. È possibile allora aver comunione gli uni agli altri? La risposta è camminare nella luce, cioè nell'amore. Se ci amiamo gli uni gli altri, avremo raggiunto uno degli obiettivi più grandi che il credente possa raggiungere perché nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi, 1 Giovanni 4 e 12. In definitiva Giovanni ha detto questo, nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri, il mondo potrà vedere che Dio esiste in noi e l'amore di Dio diventerà perfetto, cioè completo, in noi. La conclusione è quindi la seguente. Se produciamo l'amore nel prossimo, significa che lo aiutiamo nel modo giusto. Se lo aiutiamo nel modo giusto, vorrà dire che abbiamo preso l'iniziativa di amarlo. Se prendiamo l'iniziativa di amarlo, significa che amiamo Dio. Se amiamo Dio, allora ameremo il fratello. Se amo il fratello, significa che cammino nella luce. Se cammino nella luce, ho comunione con i fratelli. Se ho comunione con i fratelli, allora il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Se siamo purificati da ogni peccato, la comunione fraterna è perfetta. Se la nostra comunione è perfetta, noi dimostriamo al mondo che Dio è in noi. Nessuno vide giammai Dio, se ci amiamo gli uni e gli altri, il Dio dimora in noi e l'amor di Lui diventa perfetto in noi. Non vi è messaggio più grande di questo. Febbraio 2000. Contributo. Verità più amore. Un binomio inseparabile. Mino GBU. Jonathan Lamb. Ellero.